Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata da Davide Paolini. Ebbene, oggi cominceremo la lunga settimana del vino, perché da domani inizia il Vinitaly, una delle manifestazioni più importanti nel mondo di vino, appunto a Verona, e noi saremo là con Radio 24 e trasmetteremo moltissimi programmi. Ma cominciamo oggi a trattare questo argomento, e con un argomento molto particolare, che è quello dei consumi. Dei consumi perché? Perché diciamo che i segnali da diversi anni sono molto chiari: si beve meno vino, non solo in Italia, ma anche in Francia e in Spagna, paesi, guarda caso, tutti vecchi produttori di vino, mentre diciamo che il nuovo mondo continua invece nella crescita verso l'alto. E allora cosa sta succedendo? Bene, le ragioni sono tante, ma le vedremo via via. C'è chi dice che la crisi dei consumi, ma non è solo questa, no, assolutamente. C'è chi dice l'etilometro, anche questo influiscono tutti, ma cambiamenti di stile di vita, forse. E ha meno bevibilità del vino, quindi si beve meno perché probabilmente non si ritiene il vino un qualcosa di gradevole. Quindi andremo via via a vedere, come ho detto, questi riferimenti. Ma io ricordo, numero verde 800 24 00 24 349 238 6767, ma diteci anche voi perché bevete meno. Che noi ce lo bemo e poi gli rispondemo embe che c'è, e quando il vino embe arriva il gozzo. Ecco, ma è un po' cambiato allora il tempo da quando questa canzone imperversava e si beveva a garganella, come si dice. Oggi appunto i tempi sono diversi, ma noi iniziamo questo viaggio appunto nel scoprire le cause con Dennis Pantini, project leader di Wine Monitor di Nomisma di Bologna. Buongiorno Pantini. Buongiorno. Allora Pantini, voi avete fatto delle ricerche addirittura anche nella GDO, insomma i consumi sono calati di molto. Sì, ormai in Italia praticamente siamo a un livello quasi di parità con l'export, nel senso che 10 anni fa il rapporto era 1-2, 30 milioni di ettolitri consumati in Italia, 15 esportati. Oggi invece siamo praticamente allo stesso livello, 20 bevuti in Italia e 20 portati all'estero. Beh, portiamo a casa molti soldi però col vino. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo infranto la barriera di 5 miliardi di euro di valore esportato, quindi siamo al massimo storico. Ecco, diciamo che è calato il consumo di vino, ma questo secondo me va oltre la crisi, perché questi segni di bere meno erano precedenti alla grande crisi, se non erro. Sì, assolutamente sì, nel senso che se andiamo indietro di 10 anni praticamente abbiamo ridotto di circa un terzo i consumi interni, perché c'è una questione soprattutto strutturale, nel senso che il vino come bevanda in accompagnamento ai pasti quotidiani ormai interessa una parte della popolazione sempre più bassa, circa 1,5 milioni di consumatori contro gli oltre 4 di 20 anni fa. E soprattutto perché poi questa parte di popolazione è quella legata agli over 65 anni. Ecco Pantini, voi avete fatto appunto questa ricerca, ho detto prima che le cause non sono una sola, ma sono veramente tante, e assieme danno questa situazione. Ma io vorrei capire se, ecco, secondo voi c'è una causa che forse più di ogni altra pesa sulla diminuzione del consumo di vino? Ce ne sono diverse, dove ognuna però ha dato un contributo importante. Come dicevo prima, una è di natura fisiologica strutturale: se sono i più anziani, diciamo così, a bere più vino, chiaramente fisiologicamente questi si riducono sul mercato. Poi c'è la questione invece delle giovani generazioni, dove hanno un modo di bere vino completamente differente, non tutti i giorni ma soprattutto in momenti conviviali. Una nostra indagine proprio chiusa 2 settimane fa ha fatto vedere come tra i giovani il vino si beve soprattutto durante gli aperitivi, tant'è vero che negli ultimi 2-3 anni ci sono alcune tipologie di vini, come quelli spumanti, all'interno di questi alcuni prodotti che hanno avuto un successo importante sia all'estero ma anche in Italia, cioè in un mercato in calo questi prodotti invece sono cresciuti. Bene, rimanga ancora con noi, sentiamo Eugenio da Verona, radioascoltatore. Buongiorno Eugenio. Buongiorno, buongiorno. Prego. Io posso dire la mia esperienza, ho 70 anni. Il mio suocero era un produttore di vino, cioè aveva una bella vigna, produceva del buon vino, del Merlot, e si beveva effettivamente in un altro modo, cioè non ci sono più queste cantine, queste diciamo produzioni amiche. Oggi secondo me, e lo faccio anch'io, bevo più di qualità e bevo meno, ovviamente perché ho meno occasioni, anche bene, perché costa di più, e quindi diciamo ecco, è un bene diverso e un bene di qualità. Bene. Lei ha già centrato due ragioni, ha detto prima non c'ho più le occasioni di una volta e bevo meno e bevo più di qualità. Un radioascoltatore ci scrive: mediamente un buon vino fa 13-14 gradi, troppo, causa etilometro ma anche per il gusto che cambia. Gigi da Torino. Bene, ne ha diciamo indicate tre, più diciamo il nostro ospite altre due, quindi capite che ci sono tante altre cause. Ma io lo richiedo a voi cari radioascoltatori, 800 24 00 24, perché si beve meno e perché eventualmente bevete meno? Pantini, un'ultima question importante secondo me, ma diciamo che ormai siamo i primi produttori al mondo e siamo i primi esportatori al mondo. Bene, diciamo che il vino sta diventando un bene importante dal punto di vista, se vogliamo, della ricchezza del paese. Assolutamente sì. Un'unica precisazione: siamo i primi esportatori in volume ma non in valore. Certo. La Francia ci raddoppia. Diciamo che un po' tutto l'alimentare all'interno dell'alimentare il vino sta diventando un asse strategico per l'economia totale dell'Italia, proprio perché in questi momenti di crisi, mentre la manifattura e altri settori stanno calando, invece l'alimentare, un po' per la sua anticiclicità, in questo il vino invece stanno tenendo con buoni risultati, portando sia reddito ma anche occupazione. Grazie, la ringrazio. Massimo dalla provincia di Bari, un radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno Massimo. Sì, buongiorno. Prego. No, semplicemente modus vivendi, sta cambiando il modo di vivere e l'approccio verso le cose. Ovviamente la crisi dei consumi ha innescato un processo vizioso e quindi non si mangiano più certe cose che sono associate al vino in modo molto brillante. Quindi tutto questo ovviamente cade sul basso e quindi genera una serie di comportamenti che sono la confluenza di tante cose. Cambiamento di stile di vita è sicuramente anche questa un'altra causa molto molto pesante sulla riduzione dei consumi. Beviamo meno vino perché 800 24 0024, SMS 349 238 6666. Prima ho detto 6767, scusate, allora ho corretto. Bene, continuiamo questo nostro viaggio appunto su questa analisi. Io vedo moltissimi SMS che dicono che la causa è l'etilometro. No, cari radioascoltatori, non è solo questa, perché la crisi del consumo del vino è iniziata prima, quindi sicuramente poi ha inciso anche l'etilometro e come, ma sicuramente non è la causa definitiva e importante, principale della riduzione del consumo del vino. Ma abbiamo con noi un grande esperto del mondo del vino. Buongiorno Franco Maria Ricci. Buongiorno a te. Bibenda Roma, ora addirittura Fondazione Bibenda, se non erro. Fondazione Italiana Sommelier. Beh, ecco, sì, Fondazione. Elevazione per stare più vicino alle istituzioni. Ma Franco, non saranno mica i sommelier la causa della riduzione del consumo del vino? Ma sì, nel senso che non fanno abbastanza. Ecco. Nel senso, io sono convinto, Davide, che la fascia delle persone che conoscono il vino di qualità, perché di quello si sta parlando ovviamente, dei 10 milioni, io li ho contati con un sistema che poi magari quando avremo tempo te lo dirò, ma questi sono 10 milioni di persone che conoscono il vino e che quindi approcciano alla compra del vino presso le enoteche, oppure che ricevono in omaggio i vini di qualità. Bene, questi 10 milioni ora non bastano più, tutto qua, è questo. Quindi bisogna aggredire i 51 milioni rimasti con la cultura, quindi bisogna investire nella conoscenza del vino, Davide, non è soltanto il corso di sommeliere che fa conoscere il vino. Il vino italiano è terragno, come diceva Gino Veronelli, quindi è la diversità che dobbiamo far conoscere, quindi investimenti da parte dello Stato sicuramente, ma soprattutto da parte dei produttori, far conoscere la diversità del prodotto Italia, perché quello è quello che è la carta vincente. Ecco, questo non si conosce, 51 milioni di persone non sanno che cos'è la qualità del vino. Beh, questa è un'interpretazione molto molto originale, quindi appunto della conoscenza della la cultura. Ma sentiamo, abbiamo molti radioascoltatori che hanno già telefonato. Raffaele, dalla provincia di Roma. Buongiorno Raffaele. Buongiorno Davide. Prego. Ma io, ecco, sono d'accordo con quello che ha detto poco fa il, non mi ricordo, Ricci, Franco Ricci. Esatto, Franco Ricci, sono molto d'accordo. E direi che le cause del diminuito consumo di vino, a mio avviso, sono multifattoriali. Cioè, è vero che risale a 10 anni fa. In primo luogo metterei proprio questa diminuzione della storia, cioè non si conosce più la storia del vino, la cultura del vino che manca nei più giovani. Bene. Per cui viene sostituito il vino con bevande più facili, come le birre o prodotti a bassa gradazione alcolica, più facili e più semplici da consumare in qualsiasi circostanza. Poi c'è anche l'altro fatto che bere il vino durante il pranzo, soprattutto per molti, è diventato impossibile per problemi di lavoro, per cui si preferisce non bere l'alcol. Certo. Mentre prima era diverso. Cambiato sì, sicuramente lo stile di vita di molti italiani, non ci sono dubbi. Quindi lei ha identificato assieme tantissimi, ma io ho con noi anche Giacomo Moioli, che è stato tra i fondatori di Slow Food, ora insegna design del prodotto al Politecnico di Milano, ma è uno sempre attento a questi problemi. Giacomo, secondo te perché beviamo meno? Ma io credo che la grande sfida futura sia appunto quello di smetterla, e qui dobbiamo dirlo con coraggio, di pensare al vino come a qualcosa di autoreferenziale. Diceva bene Ricci, la grande sfida è quella di allargare, questo accade anche in altri settori, nella letteratura, il libro, il cinema. Il problema non è quello di continuare a raccontarcela tra noi o di pensare che il vino sia qualcosa di esclusivo. La grande questione è di rendere il vino inclusivo. Noi dobbiamo renderlo fruibile, dobbiamo creare occasioni perché soprattutto le giovani generazioni si avvicinino a questo prodotto della terra con maggior facilità. E da questo punto di vista però dobbiamo avere il coraggio di dire che abbiamo commesso tanti errori. Ci sono stati momenti in cui abbiamo raccontato il vino come se stessimo facendo una lezione per dei baroni universitari. È cambiato il tempo. Io credo che il tema della fruibilità, dell'accessibilità, abbiamo bisogno di un vino che diventi più democratico. È finito il vino della nicchia. Oggi c'è una grande domanda a cui dobbiamo dare risposta e dobbiamo andare ad attrarre quel pubblico che io dico deve essere formato dai bevitori dilettanti, coloro che si avvicinano al vino per diletto, per piacere, per curiosità, per conoscenza. Ecco, infatti mi è già arrivato un SMS che conferma questo, mi dice: sbagliato tutto il marketing di posizionamento del vino degli ultimi 10 anni. Ma sentiamo Roberto da Milano, altro radioascoltatore. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Prego. Allora, io sono d'accordo con l'ultima opinione, cioè sì, fin da piccoli adesso i giovani non vengono educati a bere il concetto di vino. Io ho vari nipoti che praticamente non sanno neanche che cosa sia il vino, perché cominciano con la bibita, l'acqua minerale, eccetera, eccetera, ma il vino poi quando arrivano a certa età non lo apprezzano, no? Cioè, mentre invece noi eravamo abituati che a pranzo ci davano il goccettino di vino, ci si abituava a bere questo vino e piano piano si portava avanti nella vita, si portava avanti il sapore del vino quando si mangia o quando si beve l'aperitivo. Adesso invece si comincia con le bibite e si va avanti con le bibite. Il vino non viene più conosciuto. Bene. Il problema è anche stato lo sgretolamento della famiglia e mangiare meno in famiglia. Questo sicuramente è uno dei fattori sociologici, appunto, del minor consumo di vino. Ma sentiamo Edda dalla provincia di Milano. Buongiorno Edda. Buongiorno, sento proprio che l'ascoltatore prima di me, che mi ha preceduto, voleva dire più o meno le stesse cose. Diciamone altre. Le abitudini. Io ho 70 anni, ricordo che anni fa a tavola c'eravamo tutti e tutti si beveva un po' di vino, anche i giovani. Mia figlia ha 43 anni e non beve vino perché mangia fuori, mangiamo tutti fuori a mezzogiorno, per cui fuori non si mangia vino. Si è persa l'abitudine, come diceva il signore che mi ha preceduto, e si va la sera, si va al ristorante, è difficile o costa troppo, soprattutto, ecco, per i giovani comprare una bottiglia di vino buono. perché noi quando si beveva vino buono. E questo penso che abbia molto influito questa cosa. Io ho mio genero, i miei nipoti e gli amici dei miei amici, degli amici dei giovani, sì, che non bevono vino. Vabbè. Beh, questo succedeva anche in passato. Franco Maria Ricci, ma sì, secondo te il costo, l'aumento e la crisi è stata molto penalizzante per il vino? Ma guarda, il costo, il vino non esce molto con prezzi molto alti, parlo sempre del vino di qualità. Forse la ristorazione ricarica troppo, forse sì, forse è quello, ma io non lo vedo il prezzo. Cioè, noi dobbiamo tentare ancora una volta, ripeto, su un altro aspetto anche, giusto. Ecco, perché anche questo, non possiamo parlare di vino in generale, no? C'è un vino comune, c'è un vino che non noi non dichiariamo vino, perché insomma a un certo punto credo che sia il 49% del consumo nazionale, compreso quello del vino del contadino, ecco. Quindi parliamo del vino di qualità, ecco il gusto. Io parlai tanti anni fa con un ministro della Repubblica affinché potesse accedere il latte nelle tre aspetti, quattro, condensato, scremato, latte in polvere, latte fatto alla pesca, ai bambini piccoli dell'asilo, 7-8 anni, 4 anni, 5 anni, insomma, elementari. Perché? Perché noi dobbiamo imparare ai ragazzi il gusto e loro vengono attratti dalla diversità del gusto. Anche questo è un altro aspetto. Bene, volevo chiedere a Giacomo Moioli se molti sostengono che anche proprio, diciamo, come è stato fatto il vino, come il gusto che è stato proposto in questi ultimi anni, insomma, si dice che si beve meno perché il vino è meno bevibile. Giacomo, tu cosa ne pensi? Ma anche in questo caso dobbiamo essere schietti e dirci che le cose stanno profondamente cambiando. Se avessimo il coraggio, la pazienza e la curiosità di andare a vedere cosa scrivevamo 7, 8, 10 anni fa nelle schede descrittive di un vino sulle diverse guide, oggi dovremmo chiederci come mai scriviamo quasi esattamente il contrario. Tu ricorderai di come si parlava di un vino bianco importante qualche anno fa, doveva essere rotondo, cremoso, avere delle note ammaglianti, alcuni dicevano addirittura viranti verso il miele. Oggi un vino bianco viene descritto con la parola magica della mineralità, dell'acidità, della sapidità, della salinità. Stanno cambiando i gusti. Io credo che il problema futuro sia quello di pensare a dei vini buoni, interessanti, ma non complicati. Dei vini che, così come accade nell'ascoltare della musica o andare a vedere un buon film, avvicinino per poi aprire un percorso. Ecco, dobbiamo tornare ad essere un po' più sobri anche nel racconto, nella narrazione, partire dall'ABC. E nei confronti dei giovani, io da anni sto facendo un'esperienza di educazione al valore della vigna con i bambini, capendo che dalla terra poi si può arrivare anche al gusto, e l'educazione del gusto è una grande scommessa che forse bisognerà cominciare. Un'ultima cosa, Davide, io credo che dobbiamo allargare anche gli ambiti in cui pensiamo al vino. Il vino non è più solo dentro la ristorazione, nell'ambito del consumo alimentare e con i suoi conseguenti abbinamenti. Il vino deve essere qualcosa che è più facile di oggi incontrare, e quindi la grande sfida per le aziende, torno a ripetere, è quella di diventare inclusive, di aprirsi, di generare, sì, esperienze, contatti. Questa è la questione attuale. Grazie a Giacomo Moioli e a Franco Maria Ricci. Sentiamo Vincenzo da Roma, radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno, io volevo solamente dire una cosa. Io ho 40 anni e vorrei bere del vino. Il problema, secondo me, sono tutte belle parole quello che voi dite. Il problema più grande è il costo del, ecco, vino. Io quando vado a comprare una bottiglia di vino, mi hanno detto che mediamente un buon vino parte da 13 gradi. Cioè, partiamo da un minimo di 5 euro a salire. Le hanno detto, no, cioè, le hanno detto una falsità, non è assolutamente vero che parte a 13 gradi. Non sono un esperto, sì, però credo che quando vado a comprare nei supermercati la gente si lancia sulle offerte, sì, va bene, non va a trovare il vino di qualità, quindi significa che il costo è esagerato. Guardi che in Francia ci sono vini straordinari a 12,5 gradi, quindi non è assolutamente vero questo, questo forse è un falso, diciamo, una falsa indicazione. Comunque, perché bevete meno vino? 800 24 00 24, 349 238 6666. Bene, sentiamo Antonella da Milano, una radioascoltatrice. Buongiorno Antonella. Buongiorno, io volevo parlare a proposito della socializzazione del vino. C'è un rito che ormai ha preso piede, che è quello dell'aperitivo, e spesso, cioè io quasi sempre bevo prosecco e vedo che insomma anche i miei amici, le persone, quindi c'è una sorta di avvicinamento al vino. C'è, certo che un bicchiere singolo lo fanno pagare caro, se si potesse prendere la bottiglia, magari dividere per i ragazzi, sarebbe un costo minore, quindi bene, sarebbe non un incentivo al vizio, ma comunque un godimento, diciamo, moderato. Grazie, quindi il prezzo, ma sai, credo che l'unico vino che non abbia proprio cali, anzi abbia crescite, sia proprio il prosecco, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ma abbiamo con noi un produttore di vino, nonché un grande esperto di marketing e anche di lifestyle, quindi buongiorno D'Ampelio Pucci. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Caro Ampelio, qui vedo, ho fatto una specie di graduatoria, ho ricevuto tantissimi sms su questo problema e diciamo che vince decisamente, perché la gente beve meno vino, per l'etilometro. Ma tu sei d'accordo che l'etilometro veramente sia la causa principale? Io credo che questa, diciamo, l'etilometro è arrivato molto dopo l'inizio del calo del vino. Secondo me senz'altro. L'etilometro è senz'altro un freno alle bevute in compagnie, però la gente si è organizzata, c'è quello che non beve, c'è il ristorante che fa lo sconto a quello che non beve del gruppo, può di far bere là. Secondo me si beve meno vino perché si passa dai grandi bevoni al bere a bicchiere, che mi sembra il nuovo modo di un fatto di civiltà, quindi diciamo così. Ma quasi sì, cioè di cambio di coso, di stile. L'unica roba che a me dà un po' fastidio quando sento che si parla di prezzi alti del vino, ma il vino costa come una bibita, cioè il bicchiere di vino. Il vino c'ha dei lavori nei campi, c'è la vigna, c'è, è un lavoro enorme quello che si fa, per cui l'unica roba su cui non sono d'accordo è che un bicchiere di vino anche a 6-7 euro sia caro, cioè in un ristorante che deve staccarlo tutto, che sarà mattina. No, anche perché se andiamo a fare il calcolo di molte bibite che vanno per la maggiore a litro, raggiungiamo abbondantemente i prezzi del vino. Ma li superi, anche quasi l'acqua minerale. Se tu chiedi in un bar un bicchiere d'acqua minerale seduto, c'è che nessuno considera che il seduto vuol dire una persona che ti porta, eccetera. No, io trovo che il prezzo del vino basso è proprio un errore. Bene, rimani con noi Mario da Cesena, un radioascoltatore. Buongiorno Mario. Ah, buongiorno. No, io volevo dire che il buon vino da pasto di una volta, che io non lo trovo più in commercio. E quando vai a prendere una bottiglia di questi vini, che a me piace passeggiare col vino. Beh. E allora lei non lo trova più. 7, 8, 9 euro per bere un vino che poi 13, 14 gradi, che poi il giorno dopo mi giro la testa. Ho capito. Bene, forza Romagna, quindi, allora Mario. Cioè, beh, sì, facciamo un appello per trovare in Romagna del vino come una volta. Sarà un po' difficile, comunque ci proviamo con questo appello. Grazie Mario. Sentiamo, abbiamo parlato prima appunto anche di bevibilità del vino, appunto del vino nuovo, delle nuove frontiere, degli ultimi anni, dei vari cambiamenti. Allora c'è un attento ai lavori del mondo del vino, Angelo Peretti, che è direttore della comunicazione del Consorzio di Tutela del Bardolino, ma devo dire che è anche un attento osservatore attraverso il suo sito. E lui credo di aver capito che lancia questa provocazione: si beve meno perché il vino è meno bevibile, è così Angelo? Ma sì Davide, la penso assolutamente così. Noi, diciamo, tra la fine degli anni 80 e la fine degli anni 90, per seguire le mode imposte soprattutto dagli americani, abbiamo rifatto la viticoltura storica tradizionale italiana. Abbiamo creato dei vigneti che oggi danno uve eccessivamente cariche di zucchero, che quindi danno vini eccessivamente alcolici, polposi, strutturati, muscolosi, e si è persa bevibilità. La gente beve ancora, ma soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, ha spostato la beva di alcolici dal vino alla birra, perché è vista come più bevibile, e non è che costi meno. La birra, una bottiglia di birra artigianale, quella che va di moda di oggi, costa molto spesso più del doppio di vini bevibili, quotidiani, magari anche premiati dalle guide. Ma l'immagine che abbiamo del vino oggi è di qualcosa di non più bevibile. Il bere comporta la bevibilità, l'abbiamo persa per strada, e ci vuole una vita adesso per tornare indietro, perché rifare un vigneto ha un tempo tecnico di 25-30 anni, non è che puoi cambiare la viticoltura in due mesi. Quindi, per proiettarci in un'ottica internazionale, e siamo cresciuti nell'export, abbiamo distrutto la tradizione italiana dei vini quotidiani, dei vini belli, buoni, di territorio, assolutamente autentici, per seguire mode non italiane, e oggi paghiamo le conseguenze. Non è vero che l'etilometro che fa calare i consumi, lo diceva bene Bucci, l'etilometro è una cosa recente, il calo, infatti, dei consumi di vino è cominciato 25 anni fa, quando abbiamo cambiato lo stile del vino italiano. Bene, rimani con noi, sentiamo Laura dalla provincia di Venezia. Sono contento che oggi intervengono moltissime donne. Buongiorno Laura. Sì, buongiorno, buongiorno. Niente, io volevo dire questo, che io abito a Portogruaro, vicino a Pramaggiore, zona di Granvino, di Zona Pramaggiore, e noi qui beviamo sempre il vino a tavola, però non ci sogniamo di andare a comprare le bottiglie confezionate. Noi andiamo in cantina, andiamo con la nostra damigianetta e ci prendiamo un vino che costa poco ed è un vino buonissimo da tavola, e quindi i costi sono notevolmente abbassati, anche perché non ci si potrebbe permettere, se no io a pasto con mio marito bevo mezzo litro di vino, un quarto a testa. Se dovessi comprare bottiglie di vino a partire dalle 5, 8, 10 euro al litro, sarebbe una spesa enorme. Bene, quindi, signora, io tempo fa avevo fatto una trasmissione sullo sfuso e credo veramente che ci sia un ritorno. Beh, speriamo che però tutto sia controllato e non come in passato. Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché è già dottore, e in sede una maturità, si è sposato, fa carriera ed è una morte un po' peggiore. Beh, devo dire che Guccini è stato un grande, anni fa, quando ha scritto questa canzone sulla, appunto, la chiusura delle osterie, aveva già indovinato qualcosa. E Bucci, credi che anche la distribuzione abbia qualche responsabilità sul mondo del vino? Sì, io a razzo volevo rispondere un attimo al problema della bevibilità. Senz'altro il clima è cambiato, questo lo testimoniamo, quelli che dicono che non è successo niente, oggi il vino ha dappertutto un grado di più, questo bisogna tenerne conto. Sui vini bevibili ci sono, basta cercarli, sono quelli un po' fuori dalle mode, come giustissima l'idea di andare a comprare il vino in cantina e in damigiana. Noi vendiamo in damigiana e va benissimo, la gente intorno, ed è giusto, queste sono già cambiare tutto. La distribuzione, come dici tu, sta cambiando completamente, come sta cambiando la ristorazione. Ormai i bar sono diventati dei ristoranti, i ristoranti hanno affiancato il bistrò, cioè quelli che si chiamano format stanno modificandosi, e allora lì il vino ha bisogno di vini forse diversi. Il sistema di distribuzione classico con il rappresentante che va in giro sceglie solo i ristoranti, lì c'è molto da fare. Paglio, io ti devo interrompere perché si sente malissimo, mi spiace, ma si sente malissimo, probabilmente è un cellulare, mi spiace, ma abbiamo compreso cosa tu stai dicendo. Io proprio faccio continuare Peretti su questo appunto. Angelo, ma veramente il costo influisce moltissimo, oltre a quello che tu hai già detto sul consumo del vino in questo momento? Ma io non sono così convinto, o meglio, abbiamo fatto passare l'idea, dico abbiamo anche come comunicatori del vino, abbiamo fatto passare l'idea che un buon vino, lo diceva prima un ascoltatore, debba avere più di 13 gradi e debba costare tantissimo. Sì, non certo. È assolutamente vero. In Italia ci sono tantissimi vini che costano poco, che in cantina si possono comprare a 2,50 euro, 3 euro, e sono vini eccellenti, che però appartengono a zone, territori, denominazioni che sono considerate minori perché non prendono i 90 centesimi da Wine Spectator. Ecco, dobbiamo tornare a riscoprire quei vini che permettono di bere molto bene a prezzi molto bassi. Io dicevo prima della birra, i ragazzi vanno a comprare le birre artigianali che si trovano a 6, 7, no, anche euro. Di più, no, un momento, ci sono anche birre da 14 euro, birre artigianali, quindi non solo 6-7. La partenza di una birra artigianale è molto alta rispetto alla fascia di partenza di un ottimo vino da uso quotidiano. Ma prima hai fatto sentire Guccini, meraviglioso. Ecco, io sono veronese, per fortuna Verona conserva l'osteria, anzi sempre più osterie stanno nascendo a Verona e i giovani affollano queste osterie. Verona di sera è invasa da giovani con il bicchiere di vino che conversano, stanno insieme. Ecco, manca proprio il ritorno alla quotidianità del vino, alla convivialità del vino, lo stare assieme con un bicchiere di vino, insomma, no? Grazie anche Angelo Peretti, grazie da Firenze, buongiorno, veloce che ho poco tempo. Dunque, io da Firenze parlo del famoso fiasco di vino. Sì. Vero? Allora, in tavola a casa mia c'era sempre il vino, mamma e babbo bevevano, ma non il bicchiere, ne bevevano anche due o tre a pasto. Io ho cominciato a 20 anni, ora non bevo più per altri motivi, ho 84 anni, però il vino sfuso si trovava buono, c'erano le vinerie e siccome sia la mamma che il babbo se ne intendevano, si beveva bene, il prezzo era giusto e, come ripeto, il vino era buono. E beh, poi c'era il fiasco, appunto, a Firenze usava così. Eh beh, il fiasco, signora, era stato per anni anche un simbolo, il simbolo di un'esportazione particolare prima dell'85, prima del grande scandalo del vino italiano che ha influito non poco, però oggi sulle esportazioni vanno a gonfie vele, quindi sicuramente qualcosa è cambiato anche sull'immagine del vino italiano nel mondo, questo non dimentichiamolo però. Bene, sentiamo Adriano dalla provincia di Vicenza, buongiorno Adriano. Prego. Buongiorno. Prego. Allora, io volevo dire tre cose. La prima, perché non si sono abbassati i consumi di vino in Italia. Sì. La prima è dovuta da un fattore che è iniziato 7-8 anni fa, che è stato il consumo di birre artigianali italiane. Sì. E quello ha portato via una grossa fetta di mercato, almeno io vedo all'interno del mio locale, sì, che il consumo è sempre più elevato di birre e di vino inferiore. La seconda è il cambio generazionale. Io ho 40 anni, ma vedere i ventenni, la fascia dai 20 ai 30 anni, che vengono sì a andare fuori alla sera, però si limitano nei consumi proprio per il discorso della patente a punti, poi che sì, se li fermano gliela tolgono, sì, insomma. E questo anche ho sentito i miei colleghi che hanno dei locali che lavorano a mezzogiorno e fanno i pasti. Bene. Per la gente che è fuori per lavoro, anche lì i consumi si sono abbassati o addirittura la gente non consuma più, proprio perché poi devono tornare al lavoro, devono mettersi in strada e hanno paura. Ecco, lei ha già buttato molto, molto, come si dice, molta acqua sul fuoco, e allora questi argomenti che lei ha trattato, io sono già stati ripetuti queste cause, però siccome le ha sentiti Riccardo Cottarella, che è in linea ora, che è presidente dell'Asso Enologi, oltre ad essere un grande enologo, chiedo cosa ne pensa lui. Ciao Davide, andando a Verona stamattina, quindi sono in macchina, ho sentito tutta la tua trasmissione, interessante come sempre. Ho sentito anche tanti De Profundis che secondo me sono veramente fuori luogo, maggiormente le cause del De Profundis sono fuori luogo. Io penso che noi siamo passati negli ultimi 20 anni, 25 anni, da un buiissimo medioevo a un grande rinascimento, risorgimento dell'Italia enologica. Stavo pensando prima, penso se Davide Paolini avesse fatto una trasmissione come il Gastonato sul vino negli anni 60, se sei stato tu e il tuo responsabile dell'audio a sentire la trasmissione. Quindi, cioè, stiamo attenti non tanto a guardare, anche a guardare i numeri, ma a fare una disamina attenta, no? Cioè, io una cosa sono certo, Davide, facendo questo lavoro vedo che le università traboccano di studenti che frequentano logie viticoltura, non sappiamo più dove metterli. Il venire di quest'anno ci sarà un nuovo e costante record di presenze. I giovani, diceva prima un ascoltatore, fanno aperitivi a base di vino. Io non so che dobbiamo aspettarci, a parte l'esport che sta aumentando, perché allora il vino cala? Intanto rispetto ad altri prodotti non indispensabili, diciamo così, il prodotto che cala di meno. Parlate con chi vende pesce, con chi vende filetti di carne, vi rendete conto cosa significa la crisi economica? Io direi che il vino soffre, ma è quello che soffre di meno. Sì, e se soffre di meno lo dobbiamo quasi esclusivamente ad una cultura che sta prendendo piede sempre di più. C'era Franco Ricci prima in collegamento con te. Anche lui non sa più dove mettere, come l'AISE, come la FISA, dove mettere i ragazzi che fanno i corsi di sommelier. Riccardo, comunque non parlerei sempre troppo male, perché male poi. Riccardo, comunque il calo dei consumi è evidente, ma non lo è, io l'ho specificato, non lo è solo in Italia, lo è in Francia e in Spagna, che guarda caso sono i tre paesi che sono produttori di vino, perché sono partiti da consumi che sicuramente erano fuori dalla norma, perché i 120 litri di anni fa, anche se la statistica rifacendosi a Trilus conta veramente poco, devo dire che sono calati e stanno calando, perché anno per anno stanno calando, quindi una qualche ragione c'è, forse il ragionamento che stai facendo tu è a supporto di quello che la qualità cresce. Ma guarda, voglio sentire anche Alessandro Regoli, che di Wine News, che è un attento osservatore del mondo del vino, cosa ne pensa. Beh sì, quello che dice Riccardo è vero, l'attenzione è comunque salita sia nelle università sia nei media, però comunque il dato dei consumi sta scendendo, quindi è vero come dicevi anche te che in Francia, in Spagna, in Italia, che sono da sempre grandi paesi produttori, il consumo sta scendendo e sta crescendo invece nei paesi, diciamo, notoriamente non produttori. Però secondo me delle contromisure bisogna riuscire a trovarle, perché sicuramente anche quello che dicevano i telespettatori, tra alcol test e ritiri e patenti, la persecuzione colpisce duramente. È vero anche che il vino è calato perché ci sono tantissime altre bevande che stanno andando forte, non ultima anche il boom della birra, anche delle birre artigianali. Le vecchie generazioni non bevono più come una volta, i giovani non hanno mantenuto le stesse abitudini di consumo. Poi anche un'altra cosa che secondo me un po' bisogna, soprattutto anche noi, diciamo, esperti, bisogna un po' abbozzarla, si dice in fiorentino, che è questo vino esclusivo dei riti, dei linguaggi complessi e tecnicistici, cioè questo tende ad escluderle. Ecco, quindi prego, finisci. I pasti anche più light con il pranzo che sta quasi scomparendo, quindi ci sono una serie di cose che portano verso un calo dei consumi. Come risollevare i consumi? Come risollevare? In questi anni si è associato il vino alla cultura, all'essere un prodotto culturale, a luoghi ed occasioni di consumo molto alte, giustamente, ma forse abbiamo un po' esagerato. L'abbiamo un po' allontanato anche dal piacere semplice di convivialità, di compagnia, di chiacchiera. Oggi è associato ad altre, questo aspetto forse è associato ad altre bevande. Bene, credo che io ringrazio Cottarella, ringrazio Regoli, ringrazio anche tutti quelli che sono intervenuti. Devo dire che non posso rispondere né a Francesco, che è in linea con noi, ma mancano pochi secondi, quindi dovrei interromperlo e mi spiacerebbe, Francesco, e ho tantissimi sms a cui dovrei far fronte, ma sono veramente tanti. Grazie a Giorgio De Luca, a Pietro Lacorte e a Anita Panizza che hanno contribuito a questa trasmissione. Buon weekend e vi do appuntamento al Vinitaly. Da domenica Radio 24 si trasferisce al Vinitaly, nel consorzio del Montepulciano d'Abruzzo. A presto, al prossimo weekend.